in realtà la notizia secondo me dovrebbe essere un po' corretta, perché in realtà Forza Nuova non si scioglie affatto, lo ha anche ribadito uno dei suoi massimi dirigenti odierni, Giuliano Castellino. In realtà l'operazione è semplicemente mediatica, e cioè Forza Nuova intende collaborare, se vogliamo dirla in questo modo, con un cartello più ampio, fatto da negazionisti, soprattutto dell'area della destra radicale ed altri, per cercare di attirare l'attenzione, rinforzare la propria linea, che è quella di puntare sulla piazza, sulle piazze, per cercare di costruire un consenso e raccogliere dei disagi che sono del tutto evidenti in questa fase, indotti anche dalla pandemia. Quindi non c'è nessuno scioglimento, ma c'è un'operazione che nel campo del neofascismo italiano non è l'unica. Abbiamo letto, ma lo sapevamo già, che Casa Pound, per cercare anche un suo sbocco elettorale, cerca di costituire delle liste civiche, Volontà Romana, nell'area di Roma, nella capitale, in preparazione della prossima tornata elettorale. Per cui non ci sono scioglimenti, ma ci sono delle forme diverse per cercare di stare sul pezzo, sulla piazza. È una forma di mimetismo più che altro, per cui non c'è nessuno scioglimento. Nel campo, diciamo, neofascista italiano, negli anni passati Forza Nuova ha accusato un po', ha subito un po' il colpo di formazioni come Casa Pound, che sembravano utilizzare metodi anche comunicativi un po' più, diciamo, accattivanti rispetto a Forza Nuova. Quindi questo bisogno di attenzione viene da quei problemi lì? Viene da diversi problemi il bisogno di attenzione, perché la strategia, definiamola in questo modo, di Forza Nuova negli anni passati era quella di cercare uno spazio a destra della Lega, iniziativa e operazione decisamente fallita. Oggi paga anche una scissione che si è realizzata nella primavera scorsa, tutt'altro che secondaria. Forza Nuova è stata attraversata nella sua storia da diverse scissioni, ma l'ultima è stata particolarmente importante, perché ha colpito una parte più che rilevante del gruppo dirigente, soprattutto delle sue sezioni territoriali. Si parla di circa metà dei militanti che sono usciti per confluire in questa nuova formazione che si chiama La Rete. Peraltro le associazioni collaterali, che quindi erano nell'orbita di Forza Nuova, a loro volta se ne sono andate rispetto alla Rete, per cui la Lega della Terra, Solidarietà Nazionale, l'associazione Vita Perone. Quindi c'è stato un fortissimo indebolimento. Uno dei motivi, se non il motivo principale di questa scissione, è legata all'ascesa dentro al gruppo dirigente dei cosiddetti romani, e in primis di Giuliano Castellino, che è un signore che ha un profilo criminale di tutto rispetto e che non è stato visto bene e considerato da parte di una parte rilevante del gruppo dirigente e delle sezioni territoriali di Forza Nuova. Per cui, oltre a questo, la concorrenza con Casa Pound ha determinato questa spinta di Forza Nuova alla ricerca di visibilità, puntando anche a raccogliere alcune esperienze, alcuni spezzoni delle curve degli ultras. Nel giugno scorso si sono fatte in questo senso manifestazioni a Roma. Una delle cose che sta portando avanti Forza Nuova è quella di una specie di governo ombra, che è una pagliacciata, dentro il quale però sono finiti alcuni personaggi noti, uno per tutti Carlo Taormina, uomo di destra, avvocato, già difensore di Franco Freda, ed altri. Peraltro Augusto Sinagra era stato inserito ed è inserito in questa specie di governo ombra, ricordandosi che era il difensore di Licio Gelli, uomo passato quindi dalle parti della P2. E quindi sono tutte operazioni che hanno semplicemente un contenuto di tipo mediatico, e la visibilità ultima di Forza Nuova è legata alle sue difficoltà, che sono difficoltà molto serie, a questi problemi molto seri di tenuta anche di tipo organizzativo. Rapporti con invece la destra, l'estrema destra, la destra parlamentare, quindi Lega e Fratelli d'Italia, si intrattengono, diciamo? Sì, Casa Pound non ne fa mistero, perché dicevo di questa lista civica in preparazione di Volontà Romana, che vorrebbe ricollegarsi ai Fratelli d'Italia, per cui c'è una sponda da quelle parti dopo aver esaurito i rapporti, le relazioni con la Lega. Forza Nuova è, diciamo, molto più autosufficiente, quindi si muove in proprio, anche se non disdegnerebbe di essere chiamata a sua volta da qualche formazione, diciamo, della destra per bene, della destra cosiddetta istituzionale. Più volte nei tempi scorsi Roberto Fiore ha detto che se ci fosse la necessità da parte loro di intervenire per difendere e sostenere ipotesi anche governative della destra istituzionale sarebbe disposto, però, come dire, sono battute che spesso questo personaggio fa, ma come dire, è lì per il momento nell'area del neofascismo e della destra abbastanza isolato e quindi ridotto all'autosufficienza, che è poca cosa in questo momento.